No, volevo inserirmi velocemente su una cosa perché è un po' un caso che mi è capitato, tanto per farvi capire un po' come funzionano le cose in agricoltura e quanto c'entrano con l'ambiente e con i meccanismi economici. Quando avevo 25 anni mi è toccato fare la tesi di laurea e ho fatto una tesi di laurea sul mais, tra l'altro. In una facoltà di agraria di Milano nel quale la parola d'ordine era multinazionali, ovviamente, no? Però è stata una cosa straordinaria la conclusione a cui siamo arrivati con l'Istituto di Coltivazione Erbacee, che è forse il più, come dire, più emblematico anche di questo legame tra industria, chimica ed agronomia. Però siamo arrivati a dimostrare una cosa che ha dato un po' fastidio. Era una tesi di laurea sulla validità di un insetticida, un certo Carbaryl, contro la piralide del mais, che è lepidottero che attacca lo stalco del mais. Però adesso io, al di là del fatto che poi abbiamo dimostrato che questo Carbaryl non faceva niente, anzi, abbassava le produzioni della pianta, era un veleno per la pianta e riduceva le produzioni. 4 anni di tesi, 2 anni io, 2 anni un altro mio collega, quindi è uscito un articolo su Informatore Agrario che diceva che guardate che la Union Carbide sta producendo una truffa praticamente. Ma quello che forse qualcuno si ricorda è che la Union Carbide è la proprietaria della fabbrica di Bhopal. Dove si produceva questo Carbaryl che ha prodotto la strage di Bhopal, dove c'è gente ancora adesso che sta morendo a causa di fuga di questo prodotto o di concentrati che servivano a produrre questo prodotto. Per farvi capire cosa c'è dietro poi di mostruoso a questa cosa qui. Non è solo il danno in sé e la beffa, ma c'è un danno fisico reale e fortissimo alle persone che vivono nelle città e intorno a queste fabbriche. Quindi cosa vuol dire l'agricoltura biologica, ovviamente, ma cosa vuol dire l'agricoltura industriale? Che tipo di negatività si porta dietro e che catena lunga e pericolosa e perniciosa che può provocare?